Avventurieri, le asole della rete sono troppo strette per passarci attraverso e la botola da cui siete caduti è ormai fuori portata. Per liberarvi, dovrete sciogliere alcuni degli intrecci che tengono insieme la rete. Se li numerate da 1 a 10, potrete capire quali nodi possono essere sciolti, decifrando il seguente codice. Se un numero diviso per 2 lascia un resto diverso da 0, il nodo corrispondente è da sciogliere. Altrimenti, se non lascia resto, il nodo non va toccato. Quale tipologia di numeri, se divisa per 2, lascia un resto diverso da 0?